24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci, buongiorno cari ascoltatori, le 7:21 minuti, saluto Carmelo Lauricella, anche oggi in regia ci accompagnerà in diretta fino alle 9. Oggi parleremo di che cosa? Allora, gli indignados, gli indignati, in mezza Europa, mezzo mondo, anche a Wall Street. Insomma, si raduneranno sabato per quel che riguarda l'Italia a Roma, ma indignati di che? Oggi potremmo titolarla così la trasmissione, e di questo vi chiediamo: vi sentite indignati? Vi sentite vicini a quelli che si proclamano indignati? Indignati per che cosa? Nei confronti di chi o di cosa? Ne parleremo alle 8:30, parleremo anche del dibattito all'interno della Lega, avremo ospite alle 8:20 il neo segretario della Lega Varese, quello non si può dire eletto ma nominato dal partito, Maurilio Cantone, il sindaco di Cadrezzate, sarà con noi alle 8:20. Insomma, di questo parleremo più avanti, ma ora da cosa iniziamo? Dalla lettura dei quotidiani in edicola. Intanto, in questo martedì 11 ottobre, uno sguardo ai titoli. Il Sole 24 Ore oggi propone una formula un po' innovativa, nel senso che ha una doppia apertura, si può dire, nel senso che c'è un numero monografico di 20 pagine, tutte dedicate al risparmio, speciale risparmio su come investire con prudenza tra scommesse di ripresa incognite, e poi invece l'apertura della parte generalista: spunta il prelievo dell'1% per i baby pensionati. Questo è il titolo di apertura. Mentre c'è chi sceglie la battaglia tra giustizia e politica, si può dire, gli ispettori nelle procure. Così è l'apertura del Corriere della Sera. Così Repubblica: caso escort, ispezioni sui PM. Il Giornale: la denuncia di Papa, Woodcock mi libera se incastro Berlusconi. Mentre Libero propone un'intervista esclusiva al ministro della giustizia Palma: farò pagare i giudici. Per la Stampa: gli eurobond salveranno l'Unione Europea. Il Fatto Quotidiano invece, che da oggi mette in vicino alla testata questo logo: noi non obbediremo alla legge bavaglio. Il titolo d'apertura è: strappiamo il bavaglio. Queste alcune delle aperture, ne vedremo poi altre nel corso della rassegna stampa. Intanto le segnalazioni da cui voglio partire, la prima è sul Giornale. Gianmarco Chiocci e Simone Di Meo raccontano a pagina 19: sfugge ai poliziotti e gli regala champagne. Che il titolo così può dire vabbè, ma è una storia magari secondaria, in realtà è la storia di Pasquale Scotti, che dal 1984 è latitante, è considerato vicino alla camorra, e dal 1984, quando aveva 26 anni, ora ne ha 53, viene ricercato, pedinato dalla polizia, ma tutte le volte riesce a fuggire all'ultimo momento. L'ultima volta è riuscito a fuggire addirittura su una nave da crociera, dove era dato per certo, si sono infilati su quella nave da crociera anche due poliziotti, lo hanno pedinato per tutta la crociera. Due poliziotti, quando andava in piscina, quando andava a mangiare, quando andava di qui, quando andava di là, uno può dire da una nave è difficile scendere, invece in una delle tappe della crociera in Nord Africa evidentemente è sceso, e poi la beffa, i due poliziotti che pensavano di pedinarlo in maniera assolutamente in incognito, si sono sentiti bussare alla porta della cabina da uno degli addetti alla nave, che gli ha offerto loro una bottiglia di champagne, e sopra c'era scritto: buone vacanze a tutti, Pasquale. Insomma, Pasquale Scotti ancora una volta ce l'ha fatta, sfugge ai poliziotti, è considerato il provenzano della camorra, latitante da 27 anni, fuggì alla vigilia di Natale del 1984 mentre era ricoverato all'ospedale di Caserta, ferito in un conflitto a fuoco con la polizia. Da allora è totalmente in fuga e non si riesce davvero a braccarlo, ce l'ha fatta anche questa volta. E poi la seconda segnalazione la voglio fare su Michele Santoro, perché Michele Santoro fa sapere il Fatto Quotidiano, sapete che sta raccogliendo dei soldi, sta dicendo a tutti: nasce una nuova impresa televisiva, dateci 10 euro. Questa sottoscrizione fa sapere il Fatto Quotidiano, pare che stia già dando buoni frutti. C'è tanta voglia di comizi d'amore, così titola pagina 7 il Fatto Quotidiano, in 48 ore raccolti 210.000 euro. Ma è una cifra stimata al ribasso. Il primo è un passo lungo, la raccolta fondi per comizi d'amore che inizia il 3 novembre su Sky e su vari circuiti televisivi locali, alternativi, su internet, è tutto un po' ancora da chiarire. 210.000 euro già raccolti. Oggi Michele Santoro fa un'intervista all'Unità, pagina 17, intervistato da Tony Iop. Il loro obiettivo è ridurre a uno zombie la libertà di informare. Inizia così l'intervista. Vita dura, Michele? Vedi tu. Prima hanno provveduto con l'editto bulgaro, poi mi hanno fatto la guerra per vie legali mentre arricchivo l'azienda, dopo essere rientrato grazie a una sentenza. Mediocri. Che anno zero fosse una manna per la RAI e per gli investitori non è un segreto, quindi la RAI ha incassato. Ebbene, comunque non sono arrabbiato, lamento che i quotidiani nelle versioni online seguano il parto di comizi d'amore, mentre sulla carta non ce n'è traccia. E poi ce l'ha anche col PD. Santoro, mi chiedo se abbiano capito quanto stava accadendo in RAI. Si rendono conto che Rai 3 non esiste più, che hanno spazzato via Saviano, me... che hanno infilato nella lista Serena Dandini, che hanno liquidato Ruffini. Cosa hanno fatto Garimberti e i consiglieri di matrice PD? E poi ancora Santoro, è un enorme problema politico che la mia proposta sia naufragata anche sulla 7. Cosa significa se un programma di grande successo viene bloccato sull'intero fronte della TV generalista? Non ho assistito a reazioni coerenti con questa gravità. È ben vero che ci sono mille questioni fondamentali da seguire, ma questa non mi sembra secondaria. Pare che si sia accettata la purga. Così Michele Santoro sull'Unità. Allora, le 7:33 minuti, continuiamo nella lettura dei giornali. Intanto molti quotidiani aprono su cosa? Sullo scontro che c'è sicuramente dopo la decisione di mandare gli ispettori del Ministero nelle procure di Napoli e Bari. Il titolare della giustizia, Francesco Nitto Palma, si prepara dunque, scrive il Corriere della Sera, a far luce sulle inchieste delle escort portate dall'imprenditore Tarantini al premier Berlusconi. Ispettori del Ministero dai PM del caso escort. Così titola il Corriere della Sera, ma l'apertura anche di Repubblica, caso escort, ispezioni sui PM. E, questa è una notizia che, sulla quale molti quotidiani aprono, affiancata a che cosa? Alla notizia di una lettera che l'onorevole Papa in carcere per la vicenda invece su cui si indaga a Napoli, la cosiddetta P4 di Luigi Bisignani, ha spedito il messaggio di Papa: mi scarcerano se parlo del premier. È una lettera diffusa da due onorevoli che sono andati a fargli visita in carcere, vale a dire Silvano Moffa e Giancarlo Lehner. Papa accusa il PM Woodcock di avergli fatto sapere che sarebbe disponibile a farmi scarcerare a patto che ammetta almeno uno degli addebiti mossimi e renda dichiarazioni su Berlusconi e la Vitola, o almeno su Finmeccanica. La Procura di Napoli, per bocca del procuratore capo, dichiara: se la lettera è vera non merita neppure commenti. Insomma, lo scontro su questo tema sembra riaccendersi, tanto che secondo il retroscena di Repubblica, firmato Liana Milella a pagina 3, il Cavaliere ordina la guerra totale sulle intercettazioni. Non mollo, è sera quando ad Arcore prevale la linea dell'affondo totale contro le toghe, cadono le esitazioni sulle intercettazioni. Berlusconi, con accanto Alfano e Ghedini, rompe gli indugi. Non possiamo rinviare, se lo facessimo direbbero che abbiamo paura, e noi non abbiamo nessuna paura. Contro i magistrati ho tutti con me, anche Scajola, dunque l'ordine è dato, si va avanti con gli emendamenti. E tra l'altro il voto finale sulla legge sulle intercettazioni è previsto, credo, per giovedì. Tanto che il Fatto Quotidiano lo rimette in prima pagina con una battaglia che scrive il suo direttore Antonio Padellaro. Da oggi diventa così una battaglia per la quale, a fianco alla testata Il Fatto Quotidiano in prima pagina, appare questa fascetta nera su fondo giallo, noi non obbediremo alla legge Travaglio. Tra l'altro ci sono anche le foto in prima pagina di Aldrovandi, Cucchi, Uva, Ferrulli. Chi sono? Sono casi di persone che sono morte o in carcere o in circostanze come Aldrovandi durante un fermo di polizia. Tutte foto terribili, le foto di queste persone ritratte da morte, dicendo: il rischio di morire due volte senza la pubblicazione di foto e registrazioni, i morti per mano dello Stato non avrebbero avuto giustizia. Così il Fatto Quotidiano. Mentre Libero oggi, a pagina 3, intervista proprio il ministro alla giustizia Nitto Palma. Il guardasigilli dice, intervistato da Tommaso Montesano sulle intercettazioni: non sono favorevole alla fiducia, ma il testo sta diventando un terreno di scontro propagandistico. Tutto questo non giova alla bontà di una legge che regolamenta un fenomeno che ha generato anomalie che sono sotto gli occhi di tutti i cittadini. Si dice contrario al carcere per i giornalisti, forse una sanzione, un'elevata sanzione pecuniaria, però è più che sufficiente. Ma poi il succo dell'intervista, la parte più interessante, quella che farà anche più discutere, è quella sulla responsabilità civile dei magistrati. Alla domanda di Tommaso Montesano: beh, ma la responsabilità civile dei magistrati è già nella riforma costituzionale. Mi permetto di osservare, risponde il ministro, che la normativa attuale è stata approvata con legge ordinaria. È possibile intervenire senza attendere la riforma costituzionale. La legge non ammette un'azione diretta nei confronti dei magistrati, ma verso lo Stato, che poi si può rivalere sulle toghe, ma il diritto di rivalsa di fatto non è mai stato azionato. Penso dunque a queste modifiche. La normativa attuale prevede che in caso di rivalsa dello Stato il magistrato non possa essere condannato a pagare una somma superiore a un terzo dello stipendio annuale netto che guadagnava all'epoca del fatto. Faccio un esempio, dice il ministro. Se lo Stato è condannato per 200.000 euro a causa di un danno commesso 10 anni fa, può esigere dal magistrato, che magari guadagnava 3.000 euro al mese, non più di 13.000 euro. Bisogna invece rendere obbligatoria la rivalsa e per intero. Lo Stato paga 100.000 euro, il magistrato paga a sua volta la stessa somma. Ecco, questa è la parte che farà più discutere. Il titolo dell'intervista: farò pagare ai magistrati i loro errori. Così parla il guardasigilli Nitto Palma. Subito la responsabilità civile per PM e giudici. E poi soprattutto nella forma intera. Lo Stato deve pagare a una persona che fa causa per un errore giudiziario 100.000 euro, la rivalsa sul magistrato deve essere per 100.000 euro. Allora, tra l'altro, il fatto che sulle intercettazioni qualcuno fa sapere forse la maggioranza era pronta a un dietrofront lo ha legato ai cosiddetti malpancisti, vale a dire il mal di pancia, i malumori, i frondisti, quelli di Scajola e dintorni che apparivano, insomma, nutrire qualche dubbio di rimanere in questa maggioranza. E sono passate 24 ore, si sa, la politica a volte assume dei contorni così, si cambia da un momento all'altro. Ebbene, oggi i giornali raccontano tutti una sorta di dietrofront da parte di Scajola, comunque di un rallentamento, una lettera di Scajola e parte la trattativa, così titola pagina 5 il Corriere della Sera, oppure sentite il Sole 24 Ore, a pagina 26 il Premier linea dura con i frondisti e adesso Scajola congela le ostilità. Tra l'altro un Berlusconi che fa sapere il Corriere della Sera con Marco Galluzzo avrebbe detto: Claudio non mi tradirebbe mai, sono convinto di questo, si riferisce a Scajola. Ma insomma tutti fanno sapere che c'è stato un rallentamento anche per il giornale. Scajola scrive al CAV e congela i frondisti. Era previsto per oggi un summit dei cosiddetti ribelli rinviato e già due deputati dicono no al movimento. Cioè pare si stiano molti già smarcando, tanto che Libero ironizza: la sciaboletta di Scajola è già mezza spuntata. Uno dei soprannomi di Scajola è anche questo, proprio sciaboletta. Solo due seguaci pensano di mollare la maggioranza per bussare da Montezemolo. L'altra quindicina cerca di ricucire. Il nemico non è il Premier, ma Tremonti. Insomma, un affondo e subito un dietrofront, quello di Scajola. Beh, oggi il Fatto Quotidiano con Ferruccio Sansa, a pagina 4, fa un altro affondo sull'ex ministro. Eccolo qui, un'altra casa da sogno per Scajola, questa volta all'insaputa del comune. Scrive Ferruccio Sansa, secondo il Fatto Quotidiano, nella sua residenza a Imperia, beh, una residenza tra l'altro di 29 stanze affacciate sul Golfo d'Imperia, un complesso che nel 2002 ospitò il vertice tra gli allora ministri dell'interno italiano e francese, Scajola e Sarkozy, dunque una residenza di stralusso. Eccolo qui, Scajola non è fortunato col mattone, ha costruito un campetto da calcio, uno spogliatoio nella sua splendida villa sulle alture di Imperia, peccato che non abbia chiesto il permesso. La costruzione gli è costata sanzioni per migliaia di euro, è stata realizzata proprio dalla ditta del geometra Gianfranco Gaggero, che è il vice sindaco e assessore alle opere pubbliche di Imperia, il comune a cui doveva essere richiesto il permesso. E fa sapere il Fatto Quotidiano, insomma, dopo la famosa casa a sua insaputa e poi dopo la vicenda del porto di Imperia, per il quale il Fatto dice un ministro, come è chiamato Imperia, ancora indagato per associazione a delinquere con l'imprenditore Francesco Bellavista Caltagirone, ecco il terzo episodio di sfortuna con il mattone, la costruzione di un campetto da calcio con spogliatoi, muretti a secco, qualche sentiero in una zona, uno degli angoli più belli del Ponente Ligure, tutto senza autorizzazione, per il quale ha pagato delle sanzioni. In realtà il vice sindaco, che è il titolare dell'impresa che ha fatto i lavori, ha detto è tutto secondo la legge, il piano regolatore prevede che si possano costruire gli impianti che abbiamo realizzato. Va bene, sta di fatto che insomma il tema politico che è più sviluppato sui giornali tra lotta, giustizia, intercettazione eccetera, è ancora quello che tiene banco, quello del condono. Allora, la situazione del condono è questo, almeno stando a quello che scrivono i giornali. Il muro ora è di Tremonti e Bossi. Tra l'altro fa sapere La Stampa, prima c'erano le cene lunedì tra Bossi e Berlusconi, ormai il lunedì è dedicato agli incontri tra Bossi e Tremonti, e qualcuno già fa notare che c'è una bella differenza. Ieri ancora Bossi e Tremonti si sono visti e poi il no al condono. L'Unità invece fa sapere nell'articolo a pagina 6, condono scritto da Romani, che in realtà i due condoni, quello fiscale e quello edilizio, sono già stati scritti. Ci hanno pensato gli uffici del ministro Romani a preparare le misure. Questa è una notizia. A fine settembre si iniziava a parlare di decreto sviluppo dopo la torrida estate delle manovre recessive. Ma, scrive Bianca Di Giovanni, l'attenzione della stampa concentrata tutte sulle infrastrutture, intanto Romani lavorava nel silenzio raccogliendo a piene mani le pressioni per la sanatoria che già da mesi si era scatenata in Parlamento. Allora, il condono sarebbe già stato scritto, e questo è un po' il tema all'interno della maggioranza. Condono sì, condono no. Per esempio, per Repubblica, nel retroscena di Francesco Bei a pagina 9, Berlusconi insiste sul doppio condono, anche Tremonti si dovrà ricredere. Per il capo del governo non ci sono altre strade possibili. Tremonti ha assunto una posizione ideologica sul condono, ma si dovrà ricredere. Però Berlusconi dovrà vincere anche il no di Bossi. Sentite cosa avrebbe detto Bossi quando un ambasciatore del premier Berlusconi, che ieri ha provato a sondarlo su questo tema, gli ha telefonato. Bossi ha risposto con vocione roco: è roba da terroni, al nord non serve. Questo Bossi sul condono. E poi riguardo al ministro Romani, che avrebbe già scritto secondo l'Unità il condono, quello pensa di essere Romani San, ma io lo aspetto in cima alla montagna con la mia katana, cioè la scimitarra con cui i samurai decollavano, nel senso di decapitavano i nemici. Questo il tema condono. Ma oltre al tema condono rispunta, questo è il titolo d'apertura del Sole 24 Ore, l'idea di un prelievo dell'1% sulle baby pensioni. Il prelievo dell'1% sui baby pensionati, così titola pagina 24 il Sole 24 Ore, è un'ipotesi, tra le opzioni del decreto sviluppo, scrive Marco Rogari, ci sono C'è questa idea, quella di prelevare l'1% di chi è uscito dal lavoro con meno di 50 anni di età. Ovviamente io li sento già i baby pensionati che si rivolteranno, perché nessuno in Italia, quando poi bisogna trovare dei soldi, è disposto a dire beh, forse io ho un qualche privilegio che il mio vicino di casa non ha. In ogni caso si sta valutando anche un criterio aggiuntivo, fa sapere Rogari, vale a dire estensione del mini contributo di solidarietà a chi è riuscito ad andare in pensione con un'anzianità contributiva inferiore a 25 anni. E non è comunque escluso che si tenga conto anche del reddito familiare, si sta valutando se colpire solo i trattamenti oltre una certa soglia, 20 o 30 mila euro, mentre un'altra ipotesi tra le più gettonate è far scattare il prelievo sulla fetta dell'assegno eccedente l'integrazione al minimo, vale a dire circa 500 euro mensili. Sta di fatto che le baby pensioni anche per la stampa sono nel mirino, si punta al prelievo sulle baby pensioni, i sindacati già insorgono, mentre la stampa fa sapere con Ugo Magri a pagina 8 che c'è un'altra idea allo studio, quindi condono, ipotesi di prelievo sulle baby pensioni oppure la mini patrimoniale del 5 per 1000 sui redditi più alti. Una mini patrimoniale, dicono che Berlusconi potrebbe essere tentato da questo, una mini patrimoniale, il 5 per 1000 sull'aliquota massima. Mentre c'è chi vorrebbe il condono, per l'appunto, l'ostilità è quella di Tremonti, insomma, diciamo che i soldi da qualche parte bisogna trovarli. Sentite invece il secolo XIX, è certo un articolo di Michele Lombardi e Giovanni Palombo, la strada scelta sarà un'altra, la quarta, la quinta, non lo so. Case popolari in vendita. Operazione da 30 miliardi. Berlusconi avrebbe dato il via libera al progetto che è targato dal ministro Renato Brunetta. È stato calcolato che si potrebbero ricavare fino a 30 miliardi. Il piano ricalca la proposta avanzata nei giorni scorsi dal premier britannico David Cameron, vendere le case popolari agli inquilini a prezzi agevolati. E dunque, insomma, anche su questo però già si dice chissà cosa dirà Tremonti, e vedete, le proposte sono tante e tutte sul tavolo. In ogni caso, noi alle 8.20 parleremo invece di questa vicenda della Lega, i mal di pancia all'interno della Lega. Tra l'altro oggi La Padania, il quotidiano della Lega, titola così: Bossi, riforme sì, condono no. E in 20 pagine di Padania non c'è mezza riga, ma mezza di quello che è successo a Varese nei giorni scorsi, quando è stato nominato il segretario della provincia di Varese della Lega, Maurilio Canton, che è anche sindaco a Cadrezzate. Questo tra i malumori della base che voleva il voto, contestazioni. Tutti i giornali fanno notare che su Radio Padania c'è una sorta di censura, cioè qui del caso Varese non si parla, ha fatto sapere Radio Padania. E insomma, che cosa sta succedendo all'interno della Lega? Mentre in Europa quello che succede è che l'Italia, attraverso il ministro Frattini, ha protestato. Perché? Perché questo direttorio a due, Germania-Francia, non piace. Non piace le proteste dell'Italia, basta, vertici a due, di tutta risposta c'è stato il gelo da parte di Merkel e Sarkozy, noi siamo i leader. Per la verità una sponda su questo all'Italia la dà Romano Prodi, ex premier, che intervistato da Fabio Martini per La Stampa, pagina 3, dice: il direttorio franco-tedesco no, crea diffidenza, i tedeschi si stanno rendendo conto che l'euro li avvantaggia, ma questa del direttorio è un disastro perché spinge alla diffidenza gli altri paesi europei, umilia gli altri organismi europei. Direi che questo direttorio rappresenta uno degli errori più gravi degli ultimi anni. Dunque anche Romano Prodi, insomma, da sinistra boccia questo direttorio franco-tedesco. Poi Prodi dice: nel resto dell'intervista ci è voluto molto tempo per capirlo, ma finalmente ci sono arrivati tutti. La fine dell'euro sarebbe un disastro non solo per l'Europa ma anche per il mondo, e bisogna dunque salvare l'euro. Allora, io ho un minuto per chiudere. Vi vorrei segnalare che cosa. Io non vorrei che possa diventare il nuovo caso di giustizia non giustizia, nel senso che il delitto di Avetrana, vi ricordate quello in cui fu uccisa Sara Scazzi, per il momento ci sono in carcere Sabrina e Cosima Misseri, beh, la Cassazione ha dato un duro colpo all'ipotesi dell'accusa. Avetrana, niente indizi su Sabrina e Cosima. La Cassazione smonta le accuse, leggo a pagina 20 di Repubblica, troppe versioni sul delitto, è solo provato che nascosero il cadavere. Ma fa sapere anche il Secolo XIX, nessuna prova su Cosima e Sabrina, e cioè l'idea è questa, non ci sono abbastanza indizi per la Cassazione per poter stabilire chi ha ucciso Sara Scazzi e dove, come, quando lo abbia fatto. Per questo Sabrina Misseri e sua madre potrebbero presto uscire dal carcere, e già è uscito dal carcere anche lo zio Michele. Tanto che sia Repubblica, tutti i giornali si chiedono, non è che rischiamo di avere un altro caso insoluto? Colpo di scena dell'inchiesta infinita sull'omicidio di Sara, così ha deciso la Cassazione. 24 mattino. Alle 8:21, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, parliamo di attualità politica, oggi lo facciamo intanto con Maurilio Canton, che è il sindaco di Cadrezzate, in provincia di Varese, che saluto, buongiorno e benvenuto Canton. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Ma anche il nuovo segretario provinciale della Lega, colui che rischia di fare che cosa? Terremotare il partito, lei è il pomo della discordia. Perché intanto è stato eletto per acclamazione e non votato, Canton? Perché c'era un candidato unico al congresso provinciale. Cioè lei? Io. Perché si dice gli altri sono ritirati sul diktat di Umberto Bossi. Beh, gli altri si sono ritirati, poi se vi sia stato no il diktat lo vado a chiedere a loro. Senta, ma qualcuno ha parlato di un'elezione, non so, sovietica, bulgara, sì. Che ne pensa lei? Ma penso che intanto siamo padani e quindi al limite potrebbe essere un'elezione padana, tanto sovietica o bulgara, sa, noi non siamo molto pratici dell'est del mondo. Cioè padani, in Padania si fa, quindi mi sta dicendo, implicitamente ha risposto che la Padania esiste, questo perché? La Padania esiste di sicuro, lo sappiamo da tempo, lo sanno tutti, e volevo però sottolineare anche un'altra cosa, non è mica la prima volta che la segreteria provinciale di Varese arriva con un candidato unico e c'è un'elezione fatta in questo modo, è una novità. Senta, però è uscito, è apparso questo striscione Canton segretario di nessuno davanti alla sede del... Sì. Perché ride? L'ha messo... Ma sì, ma perché va bene così, insomma, ci sono delle adrenaline che vanno in qualche modo sfogate, per l'amor di Dio, da questo punto di vista che ci sia anche un suo movimento, un po' di, diciamo così, di brillantezza da parte del movimento, mi va bene, ci mancherebbe altro. Cioè la Lega secondo lei non è spaccata la base? Ma assolutamente no. È spaccata soltanto nella testa magari di qualche capetto, questo sì, di cui io sicuramente non sono e non faccio parte di nessuna corrente del genere. Ma detto questo... Con chi ce l'ha? Chi è il capetto? No, non c'è nessuno in particolare, ma siccome è stata fatta questa accezione, cioè ci sono capi e capetti che sono abituati in qualche modo a creare frizioni, beh, io non sono né l'uno né l'altro. E di conseguenza questo genere di cose, quindi le spaccature e le frizioni le vedono soltanto gli altri, io non le vedo. Ma lei è maroniano o bossiano? Lei... Beh, scusi, io sono un segretario della Lega Nord, militante della Lega Nord, e come tutti i militanti della Lega Nord io sono un bossiano di ferro. Quindi ci sta dicendo che esistono i maroniani? No, questo l'ha detto lei. No. Io sto dicendo che la Lega Nord dovrebbe essere composta da militanti bossiani. Perfetto, cioè, ma sembra quasi, voglio dire, il verbo ha parlato, Umberto Bossi. Diciamo che è il fondatore del movimento, è colui il quale ha portato tutti quanti noi, ivi compresi tutti quelli che hanno preso la parola durante il congresso e anche tutti quelli che hanno partecipato ad essere quelli che sono oggi, cioè leghisti. Voglio dire, se non è lui la persona che può parlare in nome per conto della Lega Nord, non saprei chi altri potrebbe essere. Beh, però un partito, insomma, ha varie persone. Ha la sua dialettica interna, ci mancherebbe altro. Però la dialettica interna significa che quella del suo segretario federale non ha un valore? Senta, ma dicono che Bossi abbia finito quasi in lacrime questo congresso. No, assolutamente no. Perché su Radio Padania, per esempio, dicono è vietato, qui della vicenda di Varese non se ne parla. Cioè c'è un tentativo di dire è solo colpa dei giornalisti, si stanno inventando tutto, non c'è niente nella Lega, tutto normale. Ma è davvero tutto così normale? Cioè non sta succedendo nulla nella Lega? Ma guardi, la valenza che è stata data a questo congresso provinciale è sicuramente eccessiva, Io capisco che ci sono momenti in cui, come questo, momenti in cui la politica nazionale vive di frizioni, tensioni, ci sono anche momenti in cui ci sono anche momenti in cui si cerca di magari dare un obiettivo piuttosto che un altro, quindi di spostare un pochino lo sguardo. Ora, dal mio punto di vista, quello che io ritengo è che questa è stata l'elezione di un segretario provinciale e la dimensione deve essere quella provinciale, non altro. Sì. Per quanto riguarda quello che avviene a Radio Padania, io francamente non lo gestisco. Così questo succede, così dicono i giornali. Senta, ma lei per Bossi è disposto a fare che? Non saprei, dipende. Io parto dal presupposto che... Cioè Bossi dice ci sono milioni di persone con le armi pronte per la Padania e lei... io sono uno di quelli. A lei è pronto con le armi in mano per la Padania? Aspetta, sono un militante, guarda che tutti i militanti giurano quando divengono militanti e sottoscrivono, soprattutto poi il segretario provinciale insieme ai segretari cittadini, sottoscrivono un documento che è l'articolo 1 dello Statuto della Lega Nord e quindi... Noi ci muoviamo su questa, diciamo così, falsa riga. Mancherebbe altro che non fossimo così. Cioè l'articolo 1 è lavorare per l'indipendenza della Padania. L'indipendenza della Padania, ma anche combattendo nel caso. Beh, insomma, siamo militanti e voglio dire, non... ha capito, funziona così. Io non mi tiro indietro. Che, no, ho capito, che non si tirerebbe indietro. Cioè, ma anche imbracciare le armi, voglio dire, nel senso è una cosa... Sì, però dia la dimensione corretta alla domanda, voglio dire, non siamo sicuramente un partito di terroristi né tantomeno di guerrafondai, anzi, no, ci mancherebbe. Siamo un partito di pacifici militanti, i quali vanno, soprattutto, questa è una cosa che non viene ricordata mai, invece la voglio ricordare io adesso, noi facciamo manifestazioni con decine, centinaia, a volte migliaia di persone, siamo andati in tutte le piazze d'Italia, siamo andati anche a Roma a fare manifestazioni e non ricordo, io non so se lo ricorderà lei o qualcuno dei suoi radioascoltatori, non ricordo mai in una nostra manifestazione un incidente, una vetrina diversa, una macchina bruciata, un insulto a qualche persona. Insulto magari qualcosa, nelle manifestazioni qualche insulto magari sarà partito. Intendevo dire alle forze dell'ordine o alle persone che tendono a garantire la sicurezza, quando invece vediamo regolarmente... manifestazioni fatte dai famosi democratici, che siano movimenti giovanili o partiti strutturati o che sia, dove c'è la violenza, che incidentalmente finiscono sempre con qualche rissa contro la polizia. Senta, hai capito? Che ne pensa del capo dello Stato Napolitano che dice chi parla di secessione e indipendenza della Padania è fuori dalla storia? Beh, guardi, io devo dire la verità, non penso proprio nulla. Io penso che quando il Ministero dell'Economia fa i conti sui soldi che arrivano, credo che sappia esattamente da che parte arrivino questi soldi. Quindi, se vogliamo dire che la Padania non esiste in forza di questo, diciamo che non è vero. Ma la Padania esiste geograficamente anche secondo lei? Cioè confini, con tanto di confini e tutto? Guardi che la Padania è un luogo innanzitutto del cuore, poi dei popoli, e di conseguenza viene considerata patria da chi la abita, quindi i confini non li decido io e non li decide nessun altro, sono già insiti nel nostro essere. Un'ultima domanda per Bossi, così dice oggi Repubblica, il condono è una cosa da terroni e quindi non va fatto. E quindi che commento vuole da me sul condono? Non so, mi dica, lei è un bossiano di ferro. Certo, io faccio il sindaco oltre a fare il segretario provinciale. È una roba da terroni, insomma. Ma non è che è una roba da terroni, allora chiariamo questa cosa. Io faccio il sindaco in questo momento solo nel mio comune. Per far funzionare le cose nel mio comune, necessariamente tutti devono fare la propria parte. Di conseguenza, solitamente i condoni sono fatti per chi magari una parte della propria parte non l'ha fatta, e forse non è cosa buona e giusta. Non è cosa buona e giusta. La ringrazio. A lei. Grazie, arrivederci. Maurilio Canton, soprannominato il tagliagole dai suoi questa è la cosa più bella di dai suoi detrattori, vicenda. Il tagliagole, perché sì, taglierai via i maroniani, anche se non esistono i maroniani. Va bene. Esatto. Grazie esatto. Maurilio Canton, grazie sindaco di Cadrezzate, nuovo segretario provinciale della Lega Varese. Allora, ci fermiamo per la pubblicità e meteo e poi ripartiamo con questa domanda che vi pongo, cari ascoltatori: vi sentite indignati? Indignados? Indignati? Contro chi? Contro cosa? Indignati contro chi? I politici? Contro noi giornalisti? Contro di me? Contro Carmelo Lauricella in regia? Viola Bottoni? Non lo so. Allora, sono le 8:35 minuti. Io ho fatto questa domanda. Vi sentite allora indignati? Capite questo movimento degli indignati? Contro chi? Contro cosa vi sentite indignati? Ne vogliamo parlare? 800 24 00 24. Due esponenti politici che saluto. Il sottosegretario Daniela Santanchè, buongiorno e ben ritrovata. Benvenuta. Buongiorno a lei e a tutti. Saluto anche Giovanni Russo Spena di Rifondazione Comunista, buongiorno e ben trovato. Tra l'altro ieri so che ha partecipato al flash mob degli indignati a Banca Italia. Sabato sarà la manifestazione, sabato a Roma un po', e anche un po' in tante piazze europee. Tanti indignati, così si autodefiniscono, si ritroveranno a manifestare. Tra l'altro voglio salutare e far sentire anche a voi, Santanchè, Russo Spena, Marco Marangoni, che saluto. Buongiorno, signor Marangoni. Buongiorno. Sentiamo un po' di sottofondo. Lei, so, mi hanno detto dalla redazione, è partito dalla Francia a piedi. A piedi. Per arrivare a Roma. Lungo la via Francigena, per arrivare il 15 alla manifestazione. Attualmente dove si trova? Adesso siamo sulla Cassia e stiamo arrivando acqua pendente. Vabbè, quindi in provincia di Miaiuti, io sono ignorante. La provincia, non so bene quale sia la provincia. A Viterbo, mi suggeriscono Viterbo, va bene. Perché lei si sente indignato? Intanto perché sta facendo questa cosa a piedi lei si sente indignato? La situazione italiana non mi sembra delle migliori. Abbiamo una classe dirigente che sembra che si interessi più ai loro problemi che ai nostri, dei poveracci. Io sono 10 anni che tribolo, mi sento quasi un clandestino, essendo italiano, un clandestino. Perché che fa lei nella vita? Mi sono ritrovato a lavorare in nero, perché uscito fuori dal mondo del lavoro a 37 anni, rientrarci è stato sempre duro. Al massimo c'erano queste agenzie che ti offrono dei lavori 3 mesi per volta o a prezzi e stipendi molto bassi con cui non riesci neanche a sopravvivere. Perciò mi sono trovato a dover chiedere aiuto a persone che poi in effetti ti danno un aiuto, per modo di dire. Lavoro in nero. Ma senta, lei si definisce indignato, perché partecipa anche... Indignato verso chi, verso cosa? Qualcosa ci ha detto, la classe... Indignato perché comunque qui ci si interessa più delle spese militari, ci si interessa più di tante cose che in effetti con i problemi che abbiamo non mi sembra il caso di usare quello o poi altro, cioè ci sono tutte le situazioni che vediamo tutti i giorni, almeno noi poveracci ce le troviamo tutti i giorni, non abbiamo tutti questi grandi soldi, si viaggia con 1.000 euro quando va bene. Se non a volte 800 o 700 euro al mese e mi sembra che non sia così semplice vivere. Insomma, indignata anche per, non so, non si fa abbastanza per il lavoro, allora questo non si fa abbastanza per il lavoro, non si fa abbastanza per la sanità, non si fa abbastanza per tutto quanto, si gioca sempre al massacro dei poveri pensando sempre tranquillamente per gli altri. Va bene, stia con noi Marangoni, tanto voglio dire sta camminando, immagino, verso Roma, e le faccio ascoltare, così poi ci dirà due esponenti politici. Intanto, sottosegretario Santanchè, lei di fronte a questi che si proclamano indignati, che cosa ne pensa di questo movimento che, ricorda, è nato in Spagna, ma si è diffuso in tutto il mondo, adesso è arrivato anche negli Stati Uniti? Penso che in Italia ci sono condizioni diverse rispetto ad altri paesi europei, sicuramente anche rispetto alla Spagna. Mi indigno nel fatto invece di sentire che si pensi che questo governo non abbia fatto assolutamente niente, perché il signore parlava del lavoro, dell'occupazione. Io voglio ricordare che questo è un governo che ha usato l'unico strumento che un governo può usare, perché ricordiamoci che il governo non può assumere o licenziare, ma ha usato lo strumento delle protezioni sociali, mettendo miliardi di euro a disposizione per la cassa integrazione, che questo non mi sembra non aver fatto niente. E la gente si dovrebbe ricordare che, per carità, non voglio dire che abbiamo fatto tutto tutto quello che avevamo detto che avremmo fatto, perché questo sarebbe sbagliato e sarebbe ingiusto dirlo. Però vorrei ricordare in che cornice ci stiamo muovendo, di una crisi internazionale, globale, che ha colpito tutta l'Europa, che non ha salvato paesi come la Germania, come la Francia. E quindi mi piacerebbe che fossimo un po' più italiani, un po' più italiani e meno indignati. Mi piacerebbe una bella manifestazione nel senso opposto. Siamo l'unico paese europeo che non abbiamo avuto scioperi generali, siamo l'unico paese europeo che fino adesso non abbiamo avuto tensioni sociali. Insomma, lei non la vede così male come altri paesi. Mi faccia chiedere allora, Russo Spena, perché lei ha fatto parte, insomma, di queste manifestazioni, farà parte sabato delle manifestazioni, perché c'è da dirsi indignati contro chi e contro cosa? Beh, innanzitutto io saluto Marangoni e penso che sia, come dire, metafora, rappresentante di una situazione che è molto generalizzata. Io credo che non sia qui il problema di fare propaganda, alcuni provvedimenti o altro. Io credo che ci troviamo di fronte a una situazione molto grave a livello europeo, anche a livello mondiale, a livello italiano. Il 15 ottobre vi sarà un appuntamento europeo dell'indignazione, appunto, diciamo, della rivolta. Ecco, io credo che non sia da prendere sotto gamba, qui veramente la propaganda conta poco, e qui non so se si è capito che si fa sul serio, cioè salta il banco, ecco, la gente non ce la fa più, è un movimento che ormai comprende tutto l'Occidente, Grecia sì, ma Spagna, Gran Bretagna, non dimentichiamo il Cile, appunto perfino gli Stati Uniti, che nasce da un punto fondamentale, cioè vi è una crisi democratica e della politica, vorrei ricordare, oltre ai problemi economici, perché è collegata, vi è un commissariamento degli stati nazionali. Per questo ieri abbiamo riportato la lettera alla Banca d'Italia, che la BCE, che Trichet e Draghi, cioè commissariamento inviato, della BCE, commissariamento della BCE agli stati, inviato al governo italiano. Cioè, in Europa è in corso, insomma, dobbiamo capirlo, un colpo di stato monetario, l'ha chiamato così anche l'Economist, che certamente non è il bolscevico, il Financial Times, che hanno messo appunto la faccia di Marx sulla copertina. Cioè, qui vi è una grande discussione, cioè questo modello di sviluppo dell'attuale capitale, il liberismo, è in grado o meno di soddisfare i bisogni delle persone, i bisogni della natura, o sta portando a un degrado anche autoritario della civiltà? E se io fossi al governo, mi interrogherei sul fatto che il governo è diventato proconsole di una vera e propria oligarchia, insomma. Ho capito, ma che bisognerebbe fare? Uscire dall'Europa? L'autorità monetaria. Che bisogna fare? Uscire portare avanti dei provvedimenti molto radicali e molto netti, possibili, in alcuni paesi sta avvenendo, se ne è parlato anche negli Stati Uniti, se ne è parlato in altri paesi europei, in Spagna in questo momento abbiamo una discussione su questo punto. Per esempio? Che in Italia non sono stati assolutamente discussi, perché sono stati scacciati addirittura appunto da questi proconsoli. Il nostro governo appunto è fatto di proconsoli, salvo poi sentire la lamentazione ieri, un po' penosa devo dire, del ministro Frattini, che lamenta che Merkel e Sarkozy si sono Ma mi dica un esempio, cosa bisognerebbe fare? Un provvedimento. Occorre redistribuire la ricchezza. Parliamo da 8 anni, e i più grossi economisti, anche liberali, parlano di un'imposta sui grandi patrimoni. L'imposta sui grandi patrimoni su un milione, sopra il milione di euro. Questa è una cosa concreta. La patrimoniale, onorevole Santanchè, potrebbe parlare di altri 5-6 provvedimenti. Strumenti per redistribuire la ricchezza. Prendiamo un esempio concreto, la patrimoniale. Oggi i giornali dicono che Berlusconi sarebbe tentato da una mini patrimoniale solo del 5 per 1000 sulle aliquote più alte. La patrimoniale, Santanchè. Guarda, io dico, anziché pensare alla patrimoniale, quindi ritassare patrimoni già tassati, noi vogliamo pensare al patrimonio dello Stato, che è un patrimonio enorme, che una parte di questo va venduto. Vende. No, non soltanto, voglio dire, il patrimonio, ma patrimonio inteso anche come concessioni, no? Abbiamo molte concessioni che si potrebbero vendere. A me questo modo così della soluzione più semplice, vabbè, tassiamo, voglio dire, con la patrimoniale, non mi sembra un modello che possiamo accettare. Mi sembra anche che, per carità, ripeto, ci possono essere menti più illuminate delle nostre, ma vede, anche nei dibattiti, come adesso ha fatto Russo Spena, quando si chiede, vabbè, dateci voi delle proposte, diteci voi qual è le cose più giuste da fare, e cosa sentiamo dire? La patrimoniale, ma la patrimoniale è un provvedimento che metterebbe fine alle richieste del bisogno della gente? La patrimoniale è quello che ci vuole? O c'è sempre, voglio dire, una contrapposizione netta, impregnata da ideologie che sono del secondo millennio, invece noi dovremmo, siamo nel terzo, non possiamo entrare in categorie. La battaglia del liberismo contro il, non lo so, voglio dirla io la parola comunismo, ma forse no, questa è esagerata. Però il concetto della patrimoniale è una delle idee, un'altra delle idee, siccome però mi lasci dare le informazioni sul traffico, un'altra delle idee che si profila sempre è quella del condono. Allora molti italiani si chiedono se la risposta possa essere il condono, se non è la patrimoniale, se non è altro per redistribuire la ricchezza, se possa essere quella del condono. Allora, le 8:48 minuto, vi sentite indignati? 800240024. Angelo da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Più che indignati siamo, almeno per quello che mi riguarda, sono un imprenditore che fa questo mestiere dall'85. Più di tanti certificati di abilitazioni che peraltro abbiamo, non abbiamo mai avuto problemi con il personale, mai in 25 anni vertenze o conciliazioni davanti al giudice del lavoro. Quindi? Oggi ci troviamo senza avere la risorsa per poter pagare gli stipendi. Questo perché? Perché il Comune di Roma, come tanti altri enti purtroppo, dalle Alpi alle Piramidi, che lavoriamo su tutto il territorio nazionale, non ci pagano. Il problema annoso dei pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese è un problema gravissimo. Sì, che si attendono mesi se non anni con casi limite davvero. Questo per esempio la indigna Angelo? Prego? Questo la indigna Angelo per esempio? Direi di sì. Vedendo poi gli sprechi a cui tutti i giorni e costantemente siamo sottoposti, no? Più o meno pompati dalle varie agenzie giornalistiche, ma ci sono. Va bene, grazie. Augusto dalla provincia di Terni, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Le dico perché sono indignato. Sì. Allora, io ce l'ho con la classe politica tutta, indistintamente. Tutta. Come della Valle. Non ne salvo uno, ma della Valle sì, avrà le sue idee. Sua giacuzzi, sì. Per carità di Dio lo rispetto, e sicuramente anche una capacità maggiore della mia di esporre, di dare delle motivazioni. Però io da cittadino comune dico che in tutti questi anni, da 30 anni a questa parte, il debito dell'Italia non è stato creato dagli italiani. Gli italiani hanno pagato le tasse, hanno fatto quello che i governi dicevano. Non tutti, anche poi. Ma non è, anche questa è una cosa che non condivido. Perché? Perché chi non l'ha fatto, chi ha avuto la possibilità di evadere tasse, è perché qualcuno gliel'ha permesso, perché non ha fatto i controlli o perché in velato modo magari aveva anche un interesse personale, perché è capitato anche di questo, lo dicono in televisione, quindi non sto facendo accuse personali, ma dati di fatto che sento dire. Quindi dice, lei ce l'ha con la classe politica che ci ha portato in questa situazione. Faccio degli esempi molto semplici. Io sono libero professionista, esco da casa, se devo andare a fare gasolio o benzina che sia, io pago le tasse. Se vado a un ristorante o a un bar, io pago le tasse. Se prendo un treno o un aereo, pago le tasse. Loro no. Da sempre, con tutti i benefici che hanno, no. E mi pare che qualche giorno fa, quando c'è stata una votazione, se non sbaglio, in merito a un'eventuale abrogazione di tutti i loro benefici per le pensioni dalle legislazioni, quelle pensioni allucinanti dopo 2 anni, 6 mesi e un giorno, mi pare che tutti abbiano votato. Beh, no. non è così, però Augusto, lei mette insieme tante cose. Tanto la pensione 2 anni e 6 mesi e un giorno non c'è più, adesso bisogna fare tutta la legislatura. Ma non è per difendere nessuno, aveva una sua opinione, poi ha buttato dentro un po' di tutto. Però insomma mi interessa il concetto di dire ce l'ho con la classe politica che ci ha portato in queste situazioni. Grazie. Russo Spena, che ne pensa del condono? È questa una soluzione? No, certamente no, perché io penso appunto che i provvedimenti siano altri, se stessi settesimo al governo, ho parlato prima della patrimoniale, e non è da sottovalutare perché potrebbe dare risorse per 20 miliardi annui immediati, e parliamo di imposte sui grandi patrimoni sopra il milione di euro, quindi non certamente piccola o media borghesia. Occorre eliminare alcune opere, grandi opere come la TAV in Val di Susa e il ponte sullo stretto che costano migliaia di miliardi. Giustamente Marangoni prima parlava delle spese militari, ecco, vogliamo dire che fra qualche mese avremo degli F-35, cioè un nuovo sistema d'arma che costa da solo quanto un terzo della finanziaria. Voglio dire, vi sono sprechi incredibili, anche quelli appunto della classe politica. Infatti quando eravamo in Parlamento ne abbiamo più volte proposto riduzione del numero dei parlamentari, abolizioni di province, abolizioni di privilegi e così via. Quindi io credo che 4-5 provvedimenti immediati possano essere presi. Il condono certamente no, perché è contro lo spirito, come dire, lo spirito civico, democratico. Cioè quando tu porti avanti per l'ennesima volta dei condoni tombali di tipo fiscale, sì, o sì, di tipo immobiliare, è chiaro che sfibri lo spirito pubblico. Alla fine le tasse non vengono più pagate perché si sa tanto che c'è il condono. Onorevole Santanchè, perché lei per il condono, o meglio mi pare di aver capito, apre anche al condono, insomma non chiude al condono? Ma io dico che il condono non è il male assoluto. Quando si parla di condono si pensa agli evasori fiscali. Il condono potrebbe servire sicuramente a molte piccole e medie aziende che sono vessate da dei controlli che hanno assolutamente un accanimento assoluto in certe questioni. Io penso invece di più, o pensiamo di più, a una sorta di concordato fiscale. Che cosa vuol dire un concordato fiscale? Cioè l'idea sarebbe quella di confrontare i redditi che sono stati dichiarati con i beni posseduti, per poi capire e avere degli accertamenti di massa. Sì. Prima di essere scovati dal fisco, gli evasori potrebbero invece autodenunciarsi e concordare di sanare la propria posizione con un accordo con lo Comunque, Stato. Insomma, l'idea del condono che non è il male assoluto. Io, Marco Marangoni, lei sta continuando a camminare? Buongiorno, eccoci qua sempre. Fermo qua, ma sto perdendo del tempo. Sta perdendo del tempo, perché dice così? Posso solo dire un'altra cosa? Sì. Comunque mi sembra tanto che c'è il lavoro vero e proprio, quello degli operai, quello di tutto quanto, e considero che un'ora di vita e un'ora di lavoro sono sempre la stessa cosa, e penso che la vita per tutti sia la stessa cosa. Ognuno abbiamo 60 minuti di tempo ed è quella la nostra vita. Ora, e un'ora a noi viene pagata pochissimo, e c'è gente che non facendo niente e mangiandoci soldi a noi ne guadagna a palate. Cioè la sperequazione, insomma, non c'è. Ci vuole ignorante, capiamoci, io sono un povero ignorante. Certo. Però vi rendete conto che noi viaggiamo a vita e la vita è un'ora di lavoro, viene pagata poco. A certi viene pagata moltissimo. Quando noi lavoriamo e fatichiamo, non veniamo neanche considerati, sempre meno ci state pagando. Questo è lo squilibrio, lo squilibrio che lei vuole no, denunciare. Il perché di questa bella cosa? Cioè, in fin dei conti poi siamo noi che facciamo le cose in giro per il mondo, cioè siamo noi che costruiamo le strade, siamo noi che mettiamo i tubi degli acquedotti, siamo noi che facciamo i giardini per i ricchi, siamo noi che facciamo tutto questo e sempre pagati meno. Cos'è? Stiamo tornando a essere gli schiavi? Perché questa domanda è efficacissima, e chiuda con questa, anche perché ho finito il tempo. Comunque la seguiremo ancora, Marangoni, prima di arrivare a Roma. Grazie a lei, a Daniela Santanchè, a Giovanni Russo Spena, a tutti, con Carmelo Lauricella in regia, Elisabetta Fusconi e Viola Bottoni di là. Nessuno è indignato con Viola Bottoni? No, non ha chiamato. Allora seguiteci su Facebook 24 Mattino e noi ci ritroviamo domani alle 7:20.